6,26 euro. Ci sono notti in cui devi chiamare, e più ci pensi e più ti ingrifi e dici non ce n'è. Arrivare a Praga in cerca di una troia e poi trovarsi a raccontare una puttana a tutti i tuoi perché. Io pensavo di pagare per trombare, invece guarda, guarda come gode, sembra che è bagnata quasi quanto me. Ma se ti piace il mio cazzo storto, mi puoi dare la tua email. Guarda un po', volevo solo una figa in questa Praga bagnata, la sborra è finita sopra il tuo viso, cara amica, ci proverò a farti in faccia una riga. Guarda un po', volevo solo una figa in questa Praga bagnata, la sborra è finita sopra il tuo viso, cara amica, ci proverò a farti in faccia una riga. Se poi facessi un video uscirebbe in bianco, diresti è mio, quel pitone lì è mio. Facendosi duro per te, facendosi duro per te. Ma è troppo eccitato a guardare le natiche e il culo. Puoi chiamare anche me, lo sperma mentre vengo. Sembra un fiume verso il mare. Il tuo viso se ti volti è bianco e tu sei spalaneve. Morderti i capezzoli, domani niente lividi. C'è la figa da esplorare, il clito peloso non è. Puoi sentirsi liberi, puttanieri o simili. Torneremo in Italia, ma in Italia perché? Se ti piace fottere al tramonto, puoi chiavare. Se ti piace fottere al tramonto, puoi chiavare. Se ti piace fottere al tramonto, puoi chiavare. Se ti piace fottere. Se ti piace fottere.